vivo per lei, canto per lei, proprio non riesco a non pensarla. Spendo per lei quello che ho, ma forse a lei non gliene importa. Quando tu l'hai conosciuta avevi detto che non ci saresti stato più di una nottata, e quando poi ti ha presentato i genitori devo dirti non ci sei sembrato così in gamba. Sei arrivato con mezz'ora di ritardo e parcheggiato sulle strisce e preso un'altra multa prima di lei. Soltanto voi conoscevate i miei difetti, ma grazie a lei mezza città ora conosce i fatti miei. E d'altra parte chi si sceglie il proprio guaio deve ricordare chi era stato avvertito, e se tu non troverai terra bruciata sarà perché ci avrei messo tu nel ripostiglio. E a pensarci bene era già da tempo che quando eri insieme a noi sembravi poco sveglio. E cosa resta delle tue battute stronze, dei discorsi comunisti sulle donne? Giuro con te che un bel mattino, prima ancora di svegliarmi d'improvviso, tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita senza dire, tu sei sparita da me, sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita senza dire. Felici non gli importa. E quante volte ci avrei detto che un amico vero fosse più importante di qualunque cosa, e in particolare più di una ragazza, a meno che tu non sia espressamente innamorato. Mentre stai qui dici che non sei tenuto assolutamente a darci spiegazioni, e se tu l'ami, se tu l'ami, se tu l'ami, devi dircelo qui adesso pure schiatta. Giuro con te che un bel mattino, prima ancora di svegliarmi d'improvviso, tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita senza rime, tu sei sparita da me, sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita, ti sei squagliata, senza rime, solo tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita, ti sei squagliata, tu sei sparita.